questo fenomeno dell'allenatore, io qua, io là, non è che ha allenato i Barba Papà fino adesso. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Modric nel mucchio, colpo di testa e Sergio Ramos trova il pareggio. Incredibile, il Real Madrid, il miracolo della notte di Champions. Al 93esimo il Real trova il gol del pareggio. Se avreste scritto il copione, avrei detto un gol al primo tempo, un gol all'inizio del secondo, un gol alla fine, 3-0. Questo è stato un copione imprevedibile, siamo stati un po' fortunati, è vero, però alla fine credo che ce lo siamo meritata questa fortuna. Ripartenza, attenzione, Torres e Griezmann, tocco per lui, Griezmann tutto regolare, tutto solo Griezmann, rete credibile, contropiede micidiale, Griezmann non ha sbagliato, 1-1. Griezmann non ha sbagliato, 1-1. Carvajal cerca e trova il movimento di Bale, Bale! Ci pensa lui, Bale! Ma anche noi abbiamo la vincita della partita che abbiamo perso nella Liga, però sappiamo tutti che sarà una partita molto difficile perché loro giocano bene, non solo difendono bene, giocano benissimo. Vediamo quello del 28, quello che passa nel Milan. Dunque ci sarà l'invasione degli spagnoli a Milano, già successo nella storia, però in questo caso sarà per una notte, il 28, sto leggendo di... Comunque sarà un'invasione molto cara, perché prezzi altissimi, un migliaio di euro per volo e biglietto per la replica della finale di Champions League, derby di Madrid. Questa l'abbiamo già vista 2 anni fa, non è una novità, fu quella, come abbiamo sentito all'inizio della copertina, ricordata, fu la decima di Carlo Ancelotti, conquistata da Carlo Ancelotti. Ciao Pierluigi Pardo. Affittiamo casa, Los Camos Habitaciones a Milano. Genta tiene un'abitazione muy confortable, fantastica, con il wifi, Sí. Locamos todo. Tutti comfort. Locamos casa de Giorgio De Luca, lo mandamos a Napoli para 4 días, e facciamo e gli diamo un 10%, Vendiamo tutto. Come va? Come va? Questa è stata la partita che hai raccontato ieri sera dal Bernabeu, non meravigliosa. Non è che proprio non hai avuto questo. Sulla semifinale che mi è stata assegnata, questo va detto, sono un po' invidioso del signor Piccinini, però devo dire la verità che meglio dell'andata, ci voleva poco, quantomeno ieri sera c'era adrenalina, c'era comunque una partita sul filo, una partita brutta ma sul filo, quindi a me è piaciuta, sinceramente raccontarla mi è divertito perché comunque c'era tensione, perché il fatto che il Real non avesse trovato il gol del 2-0 l'ha tenuta viva sul filo fino all'ultimo secondo, quindi non bella, ecco, esteticamente bruttina, ma almeno intensa, ecco. Sì, c'è il City ha fatto pochino per ribaltare, troppo poco per conquistare la finale. Il City gioca male. Adesso mi spiace dirlo, ma insomma è una squadra che mi sembra un agglomerato di giocatori buoni, alcuni molto buoni, forse senza campionissimi. Però un agglomerato, ecco, di talento, non una squadra. Il City poca roba per il Real Madrid di ieri sera. Il Real Madrid dà sempre l'idea invece di essere appunto un agglomerato di talento, ma una squadra piuttosto confusa. Io vedo per Milano favorito l'Atletico Madrid in questo caso, ribaltando i pronostici che potrebbero a senso portare verso i Blancos, però in questo caso avevo favorito l'Atletico. Non diciamola a Simeone, magari. No, non diciamolo. Secondo me invece il favorito è il Real, perché l'ha già vinta una o due anni fa, e quindi in questo tipo di situazione, secondo me, avrà la testa un pochino più, più sgombra, un pochino più libera. Premesso che poi la testa sgombra in finale di Champions League non puoi averla a prescindere. Però io credo che abbia comunque più talento, questo non è che c'è molto da discutere. E sulla partita secca conta? Sulla partita secca può contare. Poi l'Atletico Madrid ha una sua idea di calcio, secondo me più precisa, più sviluppata. Magari bruttina, magari esteticamente discutibile, però quell'idea è chiarissima. Il Real Madrid un po' meno, anche se devo dire la verità che Zidane un'inquadrata gliel'ha data. Cioè io pensavo, al di là delle 10 vittorie consecutive in campionato, sì, avevo fatto il Real dal vivo, a parte che insomma lo vedo abitualmente in televisione, ma l'avevo fatto dal vivo contro la Roma. Secondo me la differenza comunque tra quella partita e questa è enorme. In quella partita il Real aveva concesso alla Roma 5-6 palle gol clamorose, era una squadra dietro ancora abbastanza fragile. Adesso no, adesso è una squadra che è consapevole dei suoi limiti, che ieri era senza Casemiro, che è il grande equilibratore lì in mezzo, ma anche senza Casemiro è riuscito a giocare una partita a basso rischio. Ci sono le colpe del Manchester City, sicuramente, che non è ancora una squadra completamente compiuta, però insomma ci sono anche i meriti di Zidane, che secondo me, proprio come Simeone ha imparato dall'Italia, secondo me anche Zidane ha imparato dall'Italia. Poi non so se diventerà un grande allenatore, però mi sembra che questo Real Madrid sia una squadra di buon senso. Certo. E già il buon senso a Madrid non guarda, il buon senso a Madrid è merce abbastanza rara, lo sappiamo con bene. Con le pressioni dell'ambiente, con diciamo questo paradigma culturale che devi giocare sempre un calcio iper divertente, con un presidente molto presente, sto facendo una poesia in rima, però insomma il concetto è questo, con tutte queste cose qui riuscire a imporre un calcio non troppo spettacolare ma redditizio è insomma un privilegio. Chiaramente Zidane si porta dietro il fatto che Zidane, certo, se ci andiamo io e te a giocare così ci cacciano, no, ma al chiaro, primo 1-0 bruttino. Ma serviva anche questo, un giocatore, cioè un allenatore di carisma, un allenatore che comunque avesse presa su El Pueblo, sui giocatori, uno che portasse oltre a delle idee, oltre a un certo ordine, anche in dote un carisma che ovviamente Zidane ha. Ci fermiamo per il traffico, 800 24 00 24, numero verde, messaggi WhatsApp 349 238 6666. C'è già chi ci invita ad affittare lo studio di Radio 24 a qualche spagnolo che cerca alloggio per il 28 sera, Viale Monterosa, comoda, due passi da San Siro, vero, lo facciamo, lo faremo. Poi parleremo di, torneremo sul Ciolo, sul Ciolismo, sull'Atletico, sul Catenaccio, su questi discorsi che ci piacciono tanto, a me sì, a Pardo meno. Poi parleremo, approfondiremo il discorso di Zidane, è già diventato un allenatore? Non credo ancora. Più tardi ancora parleremo invece dello shock di Bologna, perché è una società storica del basket italiano, le Vunere, la Virtus, è retrocessa per la prima volta nella sua storia nella categoria inferiore, per comunità la chiamiamo A2. Poi daremo una guardata al Giro d'Italia che comincia domani, insomma state con noi. Tutti convocati. Tutti convocati. Una serata molto importante, abbiamo fatto quello che, bueno, che dovevamo fare, abbiamo sofferto e così. È così, però alla fine ancora non abbiamo vinto niente, siamo nella finale, siamo contenti, tutti contenti e adesso dobbiamo sfruttare quello oggi, però già domenica abbiamo una partita già importante, poi il 28 vediamo con questa finale. Questo era ovviamente Zinedine Zidane. Ciao Emiliano Mondonico. Buon pomeriggio alla combricola del 24. Alla combricola del 24, pardo con la diciamo che va benissimo. Sono seduto sotto tre cespugli di sambuco e con nove cani e sto proprio godendomi i miei cavalli che stanno pascolando. Il sambuco, sapete cos'è? Sì. Ma sicuro? Sì, è una pianta aromatica. Tagliando le foglie e mettendole nel pollaio, i piapunì smettono di fare il loro mestiere. Sapete cosa sono i piapunì? Immagino i galli? sono quelli che succhiano il sangue ai polli. Pia, morsicano i pulini, i polli. Ho capito. E perciò il sambuco è il più grande, antagonista del pio. Cioè, vi devo fare anche questa cultura. Che lingua è, maestro? Che lingua è? È lingua, la lingua popolare. Hai ragione, lombarda. Cioè, la lingua popolare, perché non la... comunque bisogna essere andati a scuola per riconoscerla. E questo 24, che forse non vi ho mai detto, è un numero che io odio. Odio perché io nell'elenco della classe ero il 24esimo. E ti beccavano sempre per l'interrogazione. Bravo, no, ve l'avevo già detto. Pensa che suonato che sono. No, non lo sapevo. Sentiamo e aprivano la pagina del libro. Guardavano che pagina era e saltava 24. Sempre fuori il 24. Mondonico Emiliano, venga. Ma che balla sono, vi ho appena detto che ieri che non ero pronto, non posso il giorno dopo essere pronto, giusto? Certo. Perciò ho odiato e odio, no? Adesso no, ci siete voi e perciò diciamo che l'odio è passato, in questo momento è curiosità e simpatia. Ditemi. Si è attenuato, senti, l'Atletico fa catenaccio? No, l'Atletico è una grande squadra, l'Atletico fa il calcio vero, non me la dovete con questo tiki-taka, con questa situazione che con le quali ci siamo riempite tutti quanti la bocca. Il vero calcio è quello dell'Atletico, è quello che non ti fa respirare, è quello dove in ogni zona del campo dove c'è la palla ce n'è uno, due in più. Ieri sera il Manchester ha cercato di fare l'Atletico, ma sono lontani, penso minimo 50 anni. Ecco perché non mi sorprende, anche se chiaramente ho provato grande meraviglia, che Ranieri abbia vinto la Premier League, perché tecnicamente sono indietro anni luce da noi, ed è chiaro che in questo momento, o mai come in questo momento, la questione tattica è diventata proprio la prima questione delle gare di calcio. La stessa Juventus è la squadra che più assomiglia all'Atletico, viceversa, e perciò puoi così raccontarla tu, che il calcio è fatto di fenomeni, è fatto di diagonali, è fatto di sovrapposizioni, è fatta di triangoli, è fatta di traffico, è fatta di che cavolo ne so. Il calcio è questo, e chi sa più fare questo tipo di calcio è giusto che vinca. Poi dopo ammiriamo anche gli altri, però rimaniamo abbastanza perplessi quando tutti si innamorano di un qualcosa che non esiste, che è, non dico casuale, ma fa parte del percorso della moda. Tu non devi innamorarti di una donna perché sta alla moda, tu devi innamorarti di una donna perché, guardandola negli occhi, è quella che ti piace, è quella che non dimenticherai mai. Invece noi siamo andati a innamorarci di chi era vestito meglio, di chi aveva i tacchi più alti. Hai capito, la rivincita. Adesso stiamo ritornando agli occhi, al naso, ai capelli, alla bocca, e mi fermo lì. Pierluigi Pardo, io... Grazie per esserti fermato, ma abbiamo capito tutto e siamo completamente d'accordo con te. No, ma voi siete d'accordo con me dal collo in su o dal collo in giù? No, tutto quanto. Io sono sciolista. Sì, ho letto ieri un tuo post, Pardo, in cui dicevi sciolismo, guardiolismo, sciocchezze. Esistono diversi modi per arrivare al cuore di una donna, così come al cuore di una partita, di una coppa. Ma questo, secondo me, è questa roba qui, nel senso che adesso è chiaro che possono esserci simpatie, e il mister giustamente oggi rivendica l'orgoglio di un certo tipo di calcio che per anni è stato considerato di serie B rispetto al modello dominante, ma in realtà qualsiasi modello è relativo, e conta appunto lo spirito, la bocca, il cuore, l'entusiasmo, la passione. Ognuno gioca come gli viene da giocare, e anche in relazione a quelle che sono le proprie caratteristiche. È chiaro che il Barcellona ha delle caratteristiche, o il Bayern ha delle caratteristiche tecniche che possono consentire di tenere il possesso palla per 70 minuti su 90, però ci può essere qualcun altro che con le sue caratteristiche, con la sua intensità e comunque con un'idea di gioco molto chiara, perché l'Atletico gioca un gran calcio, non è, è una squadra che in 180 minuti contro il Bayern chiaramente non è che poteva dominare per 180 minuti, e quindi ha scelto una strada diversa, la strada di aspettare, la strada di far stancare, di attendere, però con un'idea precisa e con una qualità precisa. Cioè, anche a difendere ci vuole qualità, eh? Ma no? Certo, ma abbiamo detto tante volte che l'estetica non è solo... L'italiano fa anche ridere, perché lo sappiamo, ci siamo nati, sappiamo benissimo che ha esattamente lo stesso tipo di dignità, se vogliamo lo stesso tipo di letterarietà, forse anche di più, essere quelli che difendono, essere quelli eroici che mantengono la porta inviolata, o che riescono, lo so, però in un periodo in cui si parla molto di estetica, Pierluigi, l'estetica è il Barcellona al suo meglio, è il Bayern di Monaco al suo meglio, poi si parla anche di pratica, la pratica è questa. Abbiamo detto che lo spettacolo può essere non soltanto la squadra che domina il campo, come ha fatto il Barcellona con la Roma scherzandola. Lo spettacolo può essere anche questo. Ad esempio, secondo me la più grande partita dell'Inter di Mourinho fu proprio quella che permise all'Inter di eliminare il Barcellona in inferiorità numerica. Diedero loro la palla e chiusero la bottega, no? Ma posso dirvi perché la fase difensiva è imperniata sul fuorigioco? Perché i due giocatori si sono fermati contro uno e hanno preso gol con l'uomo da solo davanti al portiere? Perché a me hanno detto che il fuorigioco devi effettuarlo quando sei in inferiorità numerica in fase difensiva? Perché invece continuo a vedere squadre che prendono gol per dei fuorigioco sbagliati e sono 4 contro 1 in fase difensiva? Che estetica è questa? No, ma hai ragione, è stato un errore clamoroso quello del Bayern. O una pirlata, cioè, capite? Perché dopo bisogna andare a guardare, c'è la partita, bisogna guardarla, bisogna leggerla, bisogna viverla. Ed è chiaro che tante, troppe volte... mi sono detto, ma che cavolo si dice? Ma si sta parlando di calcio, si sta parlando della materia più facile che esiste al mondo. Per quella forse è la materia che ho catturato io, perché non c'è una materia più semplice del calcio. Perché la si vuole rendere difficile attraverso l'inutile? Capisci? Ma parliamo di calcio, di calcio dove se prendi il palo e la palla entra sei un eroe, se prendi il palo e la palla esce sei una pippa, sei un oglione, come si dice, e viviamo il calcio in questa. Perciò quando vediamo l'Atletico, quando vediamo questa gente che dal primo al 98esimo diventano proprio protagonisti, perché dobbiamo pensare che stiano sbagliando? Perché dobbiamo pensare che la bellezza del calcio non è questa? Questo è il calcio, perché i nostri bambini, quando non andavano alla scuola calcio, cosa facevano? Tutti correvano dietro a un pallone, facevano pressing. A 5 anni incominciano a fare pressing. Invece noi li abbiamo capovolti, li mandiamo alle scuole calcio e a 8 anni tatticamente sono già come quelle di 42. Grazie Emiliano. Ciao. Previdolo, ciao mondo. Grazie, ciao mondo. Ciao, ciao, ciao mondo. Ciao. Ci fermiamo per la borsa. Andiamo a trovare sotto al Sambuco. Mamma mia, invidia. Andiamo sotto al Sambuco. Invidia. Anche la Sambuca sotto al Sambuco. Sì, anche. Beh, possiamo portarla a noi. 800240024, numero verde, ti aspettiamo qua. Simeone ha dimostrato che con 4 scherpassoni, perché sono degli scherpassoni, dai, adesso non è che sono dei fenomeni tutti, santa madonna. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Si ricomincia! Convocati. C'è chi scrive che io voto per l'adrianismo, barba papà e scarpazzoni senza fine, è l'ascoltatore che è intervenuto ieri, che naturalmente ci pregiamo di invitare ogni giorno, perché ci ha davvero rallegrati, diciamo così. Nicola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, un saluto a tutti, grazie a Pierluigi Pardo per il selfie che mi ha concesso urgentemente al Franchi. Anche questo vorrei fare una considerazione sulla finale. Dica. Una sulla finale. E allora, io ero intervenuto tempo fa, avevo preannunciato dopo i sorteggi la finale Atletico Madrid-Real. Ero sicuro che l'Atletico avrebbe poi sconfitto Guardiola. Adesso mi chiedo, poi avevo previsto secondo me anche la vittoria del Real, visto che la bestia nera proprio dell'Atletico di questi ultimi anni. Però direi che sono juventino, ma dovrei fare il tifo per Zidane, ma credo che questa finale se la meriterebbe Simeone per quello che ha fatto, eliminato il Bayern di Monaco e il Barcellona. Invece il Real, visto che ha avuto un cammino molto molto facile con squadre Wolfsburg, Roma e Manchester City. Voi che cosa ne pensate? Grazie. Beh, insomma, sicuramente la merita la Real, però conta zero in 90 minuti o 120 in una partita secca, quindi i meriti lì si azzerano e spesso il calcio è ingiusto, quindi non varrà nulla il fatto che l'Atletico abbia eliminato tutti i migliori. Pasquale, buongiorno. Buon pomeriggio, sono Pasquale dal Gargano. Al Gargano, l'ho riconosciuta subito. Volete sapere dove di preciso? Sì, no, ce l'ha già detto, lo sappiamo. Vico del Gargano. Vico. Vi invito a venire perché è spettacolare, Vico. E veniamo, ci invita. Certo. Vi invito a venire, vuol dire che ci invita. Veniamo. Perfetto, quando partiamo. Allora, ho due domande da proporvi. Allora, la prima è sulla finale di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid, un grande derby. E vi voglio dire, sto Real di Zinedine Zidane può dare molto fastidio all'Atletico Madrid? E poi la seconda domanda è sul campionato, sul Milan. Il Milan c'ha la finale di Coppa Italia contro i campioni d'Italia, la Juventus. La può mettere, può avere un posto in Europa League e la può mettere veramente in difficoltà, specialmente Bacca e Menet, alla difesa della Juventus, la grande difesa della nazionale? Grazie. Difficile dirlo. Partita. La prima sicuramente sì, cioè che Real Atletico sia una finale alla pari, secondo me non c'è discussione, anzi io credo che la somma di talento del Real Madrid sia comunque superiore. Ieri sera la mista intervistato Toni Kroos, che se l'è un po' lasciato sfuggire, cioè comunque loro sanno di avere più qualità complessiva, più colpi dell'Atletico Madrid. Poi è ovvio che è una finale 50-50 e l'Atletico Madrid ha un sistema di gioco tale che è riuscito a neutralizzare Barcellona e Bayern, quindi è una squadra molto, molto pericolosa. Io penso però anche che si debba riconoscere a Zidane di aver dato un'inquadrata a questa squadra, cioè diciamo nella scala dei meriti Simeone voto 10 sicuramente, perché ha fatto qualcosa di pazzesco. Però anche Zidane secondo me merita una sottolineatura, perché ripeto, non so dirti se diventerà un grande allenatore. Di Matteo ha vinto una Champions League e poi è sparito, perché vogliamo ritornare presto, no? Io voglio dire, non è che per forza riuscire a fare un'impresa di poche partite ti porta alla gloria poi negli anni. Però la sensazione è che qualcosa abbia dato. Abbia messo a questa squadra. Senti, chiediamolo ad Alessio Tacchinardi, che lo conosce bene. Ciao Ale. Buongiorno a tutti. Sono d'accordo con Pier. Sei d'accordo con Pier? No, abbia fatto qualcosa di importante. È vero, non si sa se diventerà un grande allenatore o no, però sicuramente era uno spogliatoio distrutto, era un gruppo che aveva perso molto autostima. La bravura di un tecnico, che poi è stato un grande giocatore, capire che deve dare fiducia totale e massima a questi giocatori qua, perché comunque sono giocatori importanti. Insomma, ieri avevamo visto giocatori che insomma hanno nei piedi sempre il gol, dagli attaccanti, anche i centrocampisti, un centrocampo di grande qualità. Quindi era una squadra forte, bisogna solo farla trovare quella fiducia importante, che la fa trovare un uomo carismatico. Gesù è un uomo carismatico in una piazza con una pressione folle, e quindi bisogna fare i meriti a questo allenatore, perché sta facendo qualcosa di importante, e adesso se la va a giocare alla grande con un Real Madrid che sicuramente arriva con grandissima autostima dopo che era stato distrutto mentalmente un po' con Benitez. Senti, ti faccio una domanda che a Pardo non piace, perché non è d'accordo con la distinzione filosofica: sei ciolista o guardiolista? Metà e metà. No, sai perché non mi piace per lo spremo troppo di Guardiola. Non è che non mi piace, sono due super, super allenatori, però ecco un po' nel mezzo, non troppo posso assopare che diventa anche noioso, però neanche proprio così come è fantastico poi come gioca. C'è il Manchester United di Ferguson, ragazzi, il modello è quello, per me il modello è quello. ma non è un modello, cioè un modello è un mix di modi diversi di giocare. Comunque in ogni caso ognuno si adatta al materiale che ha, questo va detto. Il materiale di Guardiola è sicuramente superiore a quello di Simeone. È chiaro che Simeone farebbe fatica a far fare il tiki-taka a Augusto Fernandez, a Saúl Ñíguez, cioè avrebbe difficoltà a farlo, secondo me, e probabilmente non ne ricaverebbe un beneficio in quel possesso palla così prolungato. E penso anche che Simeone non voglia giocatori solo bravi ad attaccare, perché lui vuole prendere interpreti che si adattano perfettamente al suo spirito. Perché questa squadra è vero che ha comunque della qualità, però vuole anche sacrificio, vuole anche gente che vada avanti e indietro, torna, insomma. È proprio ogni allenatore ha il suo carattere e vuole i giocatori con le proprie caratteristiche. Io non penso che Simeone non voglia prendere Ribéry, però magari Ribéry non ha più quella fame di correre avanti e indietro per tutto il campo, per tutto l'anno, sì, e sì, per sì, tutti gli allenamenti. Sì, c'è anche un'altra cosa da sottolineare: l'Atletico Madrid ormai da tempo ha questa politica per cui i giocatori che valorizza al massimo poi li cede sul mercato. Avete notato come da Falcao, Diego Costa, Mario Suarez, lo stesso Miranda, che ha giocato una buona stagione nell'Inter, è un buon giocatore, ma non è quel mostro che sembrava nell'Atletico Madrid. Quando escono di lì, un po' si perdono, si spengono, comunque non brillano più così tanto. Il Valencia di Cooper, una quindicina anni fa, stesso discorso. I tifosi della Lazio ancora si ricordano Mendieta, certo, alla presentazione, alla conferenza stampa, stanno pagando la cifra. Quindi non è casuale questo discorso? Ma assolutamente no. Io penso che la forza dell'Atletico sia l'Atletico. La forza dell'Atletico è lo spirito di questa squadra, che è riuscita, così come penso che la forza dell'Ester sia stato Ranieri, e lo spirito che è riuscito a dare a questa squadra, anche se il paragone secondo me vale solo parzialmente, però il concetto è lo stesso. Cioè, il concetto secondo me è che sono due squadre che sono riuscite a spostare molto in avanti l'asticella della qualità individuale, cioè il risultato complessivo è nettamente superiore alla somma dei singoli. Quindi grande merito va agli allenatori in questi casi, perché non è che c'è da girarci attorno. Sì. Quando questo succede vuol dire è come un amministratore delegato di un'azienda che arriva, prende questa azienda, riesce a moltiplicare gli utili, perché è bravo, c'è poco da fare. Quindi l'allenatore è la somma, la sintesi del lavoro e del risultato complessivo, diciamo di bilancio, visto che siamo alla radio di Confindustria. Però questo è, dai. Alessio, sì, volevo chiederti, dimmi. Sì, no, volevo aggiungere poi alla fine, questi allenatori, io prendo anche l'esempio del Genoa di Gasperini. Quando lavori tutti insieme e ognuno sa cosa fare nel suo posto, va a pressare, sa che dietro c'è sempre quello che fa la diagonale giusta col tempo giusto, poi ti trovi magari in un ambiente magari diverso dove tu vai a pressare e l'altro dietro non viene perché modelli di calcio diversi, modelli di idee diverse, quindi è terribilmente difficile poi per un giocatore trovarsi dopo in un altro, come è successo con Mendieta, ma come può succedere con Bertolacci quest'anno nel Milan, che l'anno scorso è stato secondo me un super giocatore, quest'anno si trova in grosse difficoltà. Quindi l'allenatore del Sebao poi ognuno deve portare il suo bene, e in un contesto di gioco perfetto come è Simeone, o come lavora molto Gasperini sul collettivo, viene esaltato il giocatore. Sì, senti, ci sono Zidane, mi dà l'impressione di essere ancora lì che imparano a fare allenatore, ma come è giusto che sia, mi dà l'impressione di quello che ha saltato le medie per andare direttamente all'università. Ne abbiamo visti un po' di allenatori che giovani, noti, ex calciatori, che hanno fatto questo salto e si sono bruciati, soprattutto al Milan. Da Seedorf a Inzaghi a Brocchi vale sempre la stessa storia. Però non so se è un caso, Cioè, può essere che, insomma, forse lì c'è qualcosa che non va, perché forse in un contesto particolare, insomma, io non penso che Seedorf non sia capace, non abbia idee di calcio, Inzaghi non sia capace, non abbia idee di calcio. Adesso Cristian, che sta arrivando adesso, che sta facendo un corso con me, che ci sta mettendo l'anima per questa squadra, abbia delle difficoltà, quindi insomma può essere anche magari che ci sia qualcosa dentro che non vada bene, quindi io anche con Inzaghi ci ha messo veramente l'anima, sempre idee, ha provato e non provato, forse è lì dentro, forse le aspettative di questa società sono troppo alte, però quando cominciano a non andare bene più di due allenatori, secondo me vuol dire che c'è anche qualcos'altro che non va, quindi non do colpa solo agli allenatori, sicuramente dopo qualcosa di particolare c'è, però se fallisce uno, se fallisce un altro, insomma anche Mihajlovic non ha fatto bene, se andiamo a discutere anche di Mialovic, che è stato un super nazionale, un buonissimo allenatore, un allenatore carismatico, un allenatore che era riuscito quasi a mettere un po' a posto il Milan, invece poi dopo è andato male anche lui, quindi vuol dire che dentro, e però bisogna esserci dentro, c'è qualcosa che non va. Un'ultima cosa ti chiedo, finale di Milano, l'organizzazione ossessiva, esasperata, perfetta di Simeone contro un casino di talento più o meno organizzato che è il Real di Zidane. Sì, più o meno organizzato, perché forse lì non accettano, non gli piace molto lavorare su un blocco difensivo, di pressione, quindi è giustamente Zizou prende quello che ha, fa, esalta quello che ha, esalta i difetti, cerca di nascondere i pregi e cerca di nascondere i difetti, quindi due realtà diverse, due idee di calcio diverse, perché Zizou è un allenatore che poi gli piace attaccare, perché comunque alla fine gioca sempre contro attaccanti. Pensa 50-50, io spero nel Real, perché sono amico di Zizou, però sicuramente è una partita spettacolare, poi dipende come può essere spettacolare, però anche a livello tattico di Simeone è spettacolare vederlo come riesce a tirargli fuori il veleno, il sangue sui giocatori che corrono, si ammazzano in campo per il suo allenatore, quindi mi auguro nel Real, però chapeau a Simeone e quello che riesce a fare con questi giocatori. Grazie Alessio. Ciao Alessio Tacchinardi. Ciao. Ci fermiamo per traffico. Abbiamo traffico, mi puoi Michele e Giovanni. Tutti convocati. Tutti convocati. Che sottolinea anche come non ha torto, come l'ultimo Bayern di Jupp Heynckes che ha fatto il triplete fosse un mix perfetto di tutte le componenti che servono per vedere una grande squadra di calcio. Michele, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Niente, io vorrei ritornare a fare un passo indietro, parlare di Ranieri, perché voglio dire che come italiano e anche come allenatore di calcio, perché io però mi faccio allenatore di calcio, mi sono sentito orgoglioso di questa grande impresa che ha fatto un nostro connazionale, però nello stesso tempo sono amareggiato, perché penso che in Italia una cosa così non potrebbe mai essere, non potrebbe mai esistere, perché da noi, perché Ranieri ha dimostrato che se ti lasciano lavorare riesci a costruire qualcosa di veramente bello. Invece purtroppo qua da noi non abbiamo questa cultura, assolutamente non esiste da noi in Italia questa cultura qua. Secondo me, anche perché perché qua da noi, volevo finire, secondo me il campionato italiano di calcio si sa già dall'inizio dell'anno. Poi lo vincerà senza nessuna polemica. Guarda, no, Michele, senza nessuna polemica si sa già, perché ci sono delle squadre più forti ed altre più deboli, però ci sono due cose da aggiungere al discorso, e no, penso Pierluigi sia d'accordo. Il primo è il discorso economico, che tante volte abbiamo affrontato, per cui c'è una grande sperequazione tra i più deboli club inglesi, quelli in fondo al ranking, e quelli italiani. La prima cosa, e la seconda cosa è che in Inghilterra quest'anno si è verificata una concomitanza di circostanze normalmente irreali, come se in Italia in una stagione sola Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli bucassero, Fiorentina bucassero tutta la stagione, tutte insieme contemporaneamente. Sì, ma infatti è questo unito a una stagione pazzesca dell'Ester, che è sottolineata. E la differenza, secondo me, non è tanto Italia-Inghilterra, la differenza è anche grande club, piccolo club, nel senso che Ranieri è vero che ha goduto di una tranquillità, a parte che è partito bene, in realtà, cioè, questa stagione non lo so, è talmente particolare che tutti anche a queste definizioni, perché il Leicester parte benissimo, quindi non ha mai avuto, realmente durante la stagione, non ha mai avuto un momento di crisi, non ha mai avuto 3-4 risultati negativi uno dopo l'altro, quindi... pazienza de che, mi verrebbe da dire, sono andati sempre bene, complimenti a loro, ma in ogni caso comunque è una società che era partita per la salvezza, per una salvezza tranquilla, che ha vinto il campionato, quindi secondo me anche il Chievo di Varan ha goduto di tranquillità, cioè, e non è in Inghilterra, anche se è un presidente molto più inglese, però insomma in generale sul fatto che il nostro calcio abbia mille difetti sono d'accordissimo, però insomma non è che adesso questa cosa qui è successa in Inghilterra perché loro sono figli, noi siamo No, è successa in Inghilterra perché è successa una roba senza precedenti nel mondo. Oh, ma ragazzi, che secondo me rende ci divertivamo con le ancora più bella, ci... eh? prima io e De Luca ci divertivamo nel guardare le quotazioni, no? Sapete che il Leicester campione d'Inghilterra era quotato 5.000, ormai lo sappiamo tutti, c'è anche qualcuno che ha vinto, si è rifatto la casa, eccetera eccetera. Allora, Ferguson che vince l'edizione inglese di Ballando sotto le stelle è quotato 1.000. Elvis Presley ritrovato vivo è quotato 2.000. Anche per Kim Kardashian, presidente degli Stati Uniti. Ma posso andare avanti a citarvene degli altri? No, ma certo. Questi certo, 5.000. Certo. Elvis problema, ritrovato vivo è 2.000. Il problema è a quanto quotano Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Ma scusa, questa volta di preoccupazione per il mondo, per i destini del mondo. Magari mi sbaglio io. E andrà tutto benissimo e sarà un grande presidente, sempre eletto. Amen. Speriamo. Però qualche dubbio. Vabbè, questo è. Non votiamo né io né te, altrimenti probabilmente non lo voteremo, ma questo è un altro discorso. No, l'impresa di Ranieri è stata incredibile, dai. L'impresa di Ranieri è stata incredibile, e quindi onore al merito da un lato e onore anche alla follia di una cosa che può succedere una volta su ogni 100 anni. Cioè, sì. Stiamo parlando di una cometa. Ma poi soprattutto di questi, cioè in questi anni, perché mentre le storie dell'Ipswich, del Nottingham Forest, eccetera, caddero del West Ham stesso, caddero dell'Aston Villa, caddero in un'epoca in cui non c'era questa forbice enorme che separava club ricchi da quelli poveri, adesso a maggior ragione è davvero la cometa di Halley. Giovanni, buongiorno. Grazie per l'intervento. Intanto volevo rispondere a Pando, gli volevo dire che Donald Trump è dato a 45 contro 11 di Hillary Clinton. Fino a ieri era così. È impossibile, sono in due, praticamente sono in finale, quindi sarebbe rubare era rubare il pecchio. Comunque, sì, forse qualche mese fa, adesso no, cioè al massimo potrà essere dato a 2, 2.5. Ma non credo, vabbè, amen. Vabbè, comunque, volevo rispondere che io chiamo da Catania. Devo dire che comunque calcisticamente non viviamo periodi eccelsi, però possiamo dire che tutti quelli che sono passati da Catania quest'anno hanno avuto successo. Dico Ranieri, dico Simeone, dico che c'è molta, molta soddisfazione qua in città per queste cose, quantomeno almeno godiamo di questo. In risposta... Ho organizzato una cosa col sindaco, no? Sì, potendoci parlare col sindaco, che con i tifosi, diciamo, chi è il sindaco? Come si chiama? Bianco. Enzo Bianco. Enzo Bianco, questa è un'idea da tutti i convocati. Sarebbe anche bello, perché io posso della magnifica dire... cornice. Di calcio con i due trionfatori. Sarebbe una cosa bella. Volevo dire che comunque Simeone, anche qui a Catania, aveva questo modo di giocare che gli ha portato comunque grandi successi. Ricordo tante partite belle fatte da Simeone più che altro, più che puntare, sicuramente punta sul gruppo, il gioco lo fa e tutto, punta molto sull'essere leader, su motivare le persone. In questo è molto simile, secondo me, parlo da ignorante, a Mihajlovic, che qua Mihajlovic devo dire che in 6 mesi ci ha dato delle partite stupende, perché io ricordo contro l'Inter del triplete di Mourinho in battuta dappertutto, abbiamo fatto 3-1, li abbiamo mandati a casa tutti vincenti, poi hanno vinto tutto, e ricordo come una delle più belle, se non la più bella partita che c'è stata qua. Quindi più che altro il problema Mihajlovic, secondo me, al Milan è che, come si dice, col materiale umano a disposizione più di tanto non poteva fare, secondo me, se hanno fallito in 5. Una componente comune ci deve essere. Giovanni ha ragione, ma ci sono diverse prospettive sotto cui affrontare la questione Mihajlovic, la questione Milan, non è il caso di approfondirle. Devo salutare Pierluigi Pardo, che deve tornare in Italia, mi pare. Sì, volevo dirti che comunque se io all'inizio dell'anno tu mi avessi chiesto 10 euro per giocarli sul ritrovamento vivo di Elvis Presley o sull'Ester, io li avrei... di avere giocato sul ritrovamento vivo di Elvis Presley, anch'io. Questo te lo dico anch'io. Sai, una cosa assurda, ma che peraltro è quotato 2000 contro 5000, più del doppio. E quindi vedi, avevamo scelto la cosa più prudente e avremmo perso. Attenzione, si sa mai, magari. Visto mai che proviamo a cercare il vecchio Elvis, dico a De Luca di fare un paio di colpi di telefono. Ciao Pier. La saluto, ci sentiamo domani. Ci fermiamo per GR, poi torniamo insieme. 800 24 00 24. Naturalmente valgono tutti questi discorsi, più la Virtus Bologna di cui parleremo, un'occhiata al Giro d'Italia, eccetera. Grazie, Combriccola. Tutti convocati. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. D'Antoni tira palla per Vambreda, scudetto a Bologna 74-77 dal Palazzo dello Sport di San Siro. Vittoria della Granarolo, il decimo scudetto, lo scudetto della Stella, una conquista sofferta, una conquista meritata. Bologna per me provinciale, Parigi minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore. Vince la Filodoro che esulta in mezzo al campo, abbracciata dal suo pubblico fantastico che ha colorato di mille colori il Palasport di oggi, ma vince soprattutto una volta di più il basket di Bologna, il più bel basket che abbiamo visto in questa annata straordinaria. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. C'è già la stretta di mano Messina-Ivanovic, la Kinder è campione d'Europa, la Kinder è campione d'Europa ed è gioia totale. Bologna è una ricca signora che fu contadina. A me dispiace da morire girare il coltello nella piaga all'uomo che ha dato la stella a Bologna, il decimo scudetto, quello che avete sentito all'inizio di questa, di questo montaggio, di questa copertina, un po' da lacrime agli occhi. Era la Bologna Granarolo di Brunamonti, Van Bredakov, Villalta, Rolle, ma soprattutto di Alberto Bucci. Ciao coach. Ciao a te, ciao, ho sentito ho sentito tutto e naturalmente l'ho vissuto stanotte io questo viaggio. Questo viaggio, perché 15 scudetti, 2 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, di cui tu ne hai 23, 8 Coppa Italia. Io immagino davvero che tu questa notte dentro al tuo letto si è visto passare davanti le immagini della storia del basket italiano, perché la Virtus Bologna è la storia del basket italiano che per la prima volta scende al piano di sotto. Certo, quando è arrivato da Bologna 2 mesi fa mi ha chiamato per dare una mano, per compattare un po' tutto, per farsi vedere di più la faccia della Virtus anche alla città, che un pochettino si era allontanata. È la storia dei tempi, purtroppo. Adesso mancano i finanziamenti a Bologna, naturalmente. Poi non si può più pretendere di fare un basket di alto livello, e se fai un basket che devi sempre lottare per arrivare fra l'ottavo e il dodicesimo posto, l'anno che sbagli gli acquisti, l'anno che fai in tilt perché poi ti senti ancora col vestito di 5 anni fa, un po' rattoppato, ma quel vestito lì non va più bene, devi cambiare di vestito, sapere che devi metterti in tuta e non puoi poi pensare di adoperare il vestito che adoperavi 10 anni fa, non sei più quella, non sei neanche più giovane come quella volta, insomma. Sì. È una squadra che ha passato tempi, che sta pagando delle situazioni difficili, anche economiche, e naturalmente bisogna affrontare la battaglia. Una squadra che perde tutti i confronti diretti lottando per non retrocedere, già è un segnale molto brutto, perché vuol dire che le partite non dico ne sono bravo, ma dico, tanto prima o poi vincerò uno in più. Sì. Due con quattro squadre, forse un punteggio anche alto, però alla fine nessuno può dire niente. Sei accaduto, è accaduto in maniera che, non dico, non parlo di meriti che si sia meritato questo, però alla fine ci tocca, ci è toccata a noi, dobbiamo adesso, bisogna ricominciare da capo in questi momenti. Adesso io devo dire, da capo dici? Ho avuto momenti, ieri a parte l'ho avuto una giornata brutta perché prima mi ha detto che mi era salito di intento, perciò devo rifare tutta la chemio, questo mi dava, non ero felice, fatta il pasto sport non ero del grande entusiasmo, poi la partita non mi ha fatto ancora più felice. Devo dire però che bisogna partire sempre dai momenti brutti, nella vita capitano tante volte, bisogna sempre venirne fuori, diventare vittime di se stesso è ancora più offensivo che aver perso, giocando non bene, sicuramente, errori, ma tutto questo diventa abnorme se non ne vieni fuori mettendoci subito un'altra volta pronto a partire per fare qualcosa. Io non so se mi chiederanno ancora di fare il presidente o meno, non lo so. Mm. Però se tutto questo succederà, parlare, diventare vittime di se stessi, credo che sia una delle cose più tristi della vita. Assolutamente, assolutamente. La vita è corta, non sai quanto vivi, non sai se io fra 10 minuti sono vivo, non ci sono più. Perciò ogni attimo devi sapere vivere pensando a domani, alzando gli occhi come fanno i bambini, non tenendo i bassi, e dire sì, ho commesso un errore, perché solo chi commette degli errori è vivo, chi non commette o è morto non conta più. È importante aver commesso errori in buona fede, è chiaro, hai sbagliato, però bisogna venire fuori. Adesso bisogna fare quel passo, quel momento da venire su, sapendo che avranno dei dubbi, che tutti quanti aspettano che ne fai un altro, qualcuno no, perché mi hanno scritto tanti ex giocatori, mi hanno scritto delle cose meravigliose che mi hanno commosso. No, questo posso immaginare, però Alberto, io credo sia il momento questo in cui togliere quel vestito glorioso e pieno di medaglie, togliere, mettere in un armadio i trofei, togliersi le medaglie, spogliarsi anche della storia del passato, so che è difficile, e trovare una maniera per ripartire, perché altri l'hanno fatto, Cinzano, Milano, la grande Milano negli anni 70, metà degli anni 70, andò in A2, risalì e poi aprì l'epoca di Peterson. Altri l'hanno fatto, la Fortitudo sta provando a farlo, la pallacanestro, anche la vita è così, quindi secondo me la via può essere soltanto quella, cioè non andare giù a dire io sono la Virtus e adesso io mi comporto da Virtus. No, io l'ho detto già quando sono arrivato che era un atteggiamento che non potevamo tenere. L'atteggiamento è quello di si combatte tutti i giorni, cioè, ci sono dei momenti che della gente che sta benissimo, poi una finanziaria vanno male, io ricomincio da capo, quando le cose vanno male, i momenti i più grandi, qui ti hanno scritto le più belle poesie, ti hanno scritto delle cose meravigliose, nei momenti difficili da trovare tutta la forza, la fantasia, la creatività, che può portarti fuori, se una persona intelligente, come dice Stein, la creatività è l'intelligenza che si sta divertendo, e dobbiamo trovare fuori tutte queste cose, la possibilità di ritornare ad alzare la testa, a combattere, a lottare, di guadagnarsi, di riguardare con gli occhi lucidi ma con lo sguardo fiero i nostri trofei, le nostre coppe, le nostre cose, rilucidarle tutte, le ancora ripetite come lo sono. Certo. Grazie maestro, ci sentiamo presto. Un abbraccio forte ad Alberto Bucci. 800 24 00 24. Dunque, Virtus che, come abbiamo detto, dopo aver perso ieri sera a Reggio Emilia, ultima della stagione regolare, retrocedina 2, si è disegnato un tabellone dei playoff che vivremo da vicino, playoff del campionato italiano, che ripropongono al primo turno, curiosamente, quella che è stata la finale dello scorso anno, cioè Reggio Emilia-Sassari, con Reggio Emilia seconda. E Sassari, che dopo una stagione strana, storta, disgraziata, ha chiuso al settimo posto. Dalla stessa parte del tabellone Avellino-Pistoia, Sul lato sinistro del tabellone invece Milano-Trento, e attenzione perché Trento è poco digeribile per Milano, come dimostra quel doppio confronto di Coppa in cui Trento fece fuori Milano. Questo nella parte alta del tabellone. Parte bassa del tabellone, Cremona-Venezia, questa è la composizione dei playoff per lo scudetto del basket italiano. Paolo da Rimini, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. E poi con piacere ho sentito Bucci, che qualche ricordo insomma l'ha lasciato anche qui, anche in Rimini. Anche a Rimini fece grandissime cose a Rimini, proprio appena prima di passare alla Virtus Bologna, che poi conquistò la stella. Infatti una volta c'era Basket City, le due squadre bolognesi si giocavano in campionato, oggi rischiano di non trovarsi neanche in A2 perché la Fortitudo potrebbe salire, quindi io credo che questo sia una perdita per il basket italiano. E penso che comunque in questo momento una grande colpa ce l'abbia la Lega, non parlo della retrocessione ovviamente, non è legato a questo, però questa confusione del basket italiano, la Lega ha grandi colpe, poche idee e anche molto confuse mi pare di vedere. A te mi piacerebbe chiederti, appunto, in questo campionato così strano, chi sono le tue due finaliste e chi vincerà il titolo in questo, che è davvero un campionato che assomiglia al ribasso ma un pochino alla Premier League che ha vinto Ranieri. Sì, sì, ma io credo che le due finaliste saranno, così a occhio, poi sbaglio sempre i pronostici, come sapete perfettamente, le finaliste saranno Milano e Reggio Emilia, e tra le due a me piace più Reggio Emilia, a me piace di più Reggio Emilia, e credo che se così dovesse essere sarebbe una finale estremamente equilibrata. Fabio, provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno, io però chiamavo per parlare di allenatori. Parliamo di allenatori, qual è il problema? Il problema non si pone, allora. Il problema non si pone mai. Ok, allora, avevamo parlato prima delle semifinali di Champions League. Sinceramente io ho seguito tutte e due le semifinali, anzi tutte e quattro. E se devo essere sincero, specialmente quella del Real, non mi hanno entusiasmato. Il Manchester City, secondo me, non era una squadra di livello per arrivare fino alla semifinale, però è arrivata. Diciamo così che la finale un po' più anticipata, secondo me, è stata il Bayern contro il Ciolo, Guardiola contro il Ciolo. Però abbiamo parlato anche prima di Ranieri, ma io, senza nulla togliere a questi due che sono due grandi allenatori, penso, sono convinto che gli allenatori italiani abbiano comunque qualcosa di più di questi, perché secondo me sono ancora ancorati al loro modo di giocare e non li vedo così. Lei dice gli allenatori italiani hanno qualcosa in più rispetto a Simeone e Guardiola? Per me sì, perché io sono di parte, perché tifo Juve, però mi sembra che un allenatore come Allegri abbia cercato e trovato il modo di adeguarsi meglio a quello che sono gli avversari, cioè nel modo di studiare l'avversario, di trovare i suoi punti deboli. Allegri è bravissimo nel leggere le partite, non lo scopriamo non l'abbiamo scoperto in questa stagione, l'abbiamo scoperto molto prima. Allegri, secondo me, è un allenatore top a livello mondiale in questo momento, cioè a livello dei più grandi, quindi la scuola italiana in questa stagione ha avuto una grandissima rivincita con Claudio Ranieri, ma non soltanto, insomma l'anno prossimo avremo Conte al Chelsea, avremo Ancelotti al Bayern di Monaco, insomma dal punto di abbiamo avuto e abbiamo De Biasi, che ha conquistato un risultato storico con l'Albania qualificandola per l'Europeo e che disputerà l'Europeo. Insomma, io credo che la scuola degli allenatori italiani sia totalmente all'avanguardia. A questo punto io anche lì non distingo tra allenatori italiani, spagnoli, russi o portoghesi. Secondo me ci sono allenatori bravi o bravissimi o fuori classe, e alcuni di questi sono italiani, sono dei fuori classe. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. A lei. Dunque, niente, io lo dicevo per questo, mi sono fatto questa domanda, no? Ma è possibile che queste sorprese, io parlo tipo il Verona di Bagnoli, il Cagliari di Scopigno, l'Este di Ranieri, no? Sono tutti allenatori che poi, diciamo, non dico minori, ma che poi quando sono in grandi squadre non hanno fatto più nulla, no? Perché io mi ricordo, a me ne so, ho 57 anni, quindi Bagnoli e Verona sono andato all'Inter, Scopigno è andato alla Roma, mi sembra di ricordare, Ranieri ha fatto un excursus tra Inter, Juventus, eccetera, no? Come mai, diciamo, arrivano in squadre minori e vincono? Beh, Ranieri, attenzione, Ranieri ha fatto un excursus. Ranieri ha attraversato alcune panchine estremamente importanti, oltre quelle che lei ha citato, Roma, Juventus negli ultimi anni, Roma, Juventus e Inter. è stato anche sulla panchina del Chelsea. Insomma, Ranieri è uno che la stessa panchina del Monaco, che era molto quotata, anche se l'ha presa nella Serie B francese, però è una società emergente con enormi capitali. È un allenatore che ha avuto anche fortuna, quindi ha sempre trovato delle panchine molto importanti. Poi lei dice ci sono quelli che fanno il grande exploit da una parte e poi non riescono più a reinventarsi, anche questo può succedere. Ci sono invece quelli che riescono a vincere ovunque vadano, ma poi dipende anche dal materiale umano che ti mettono a disposizione, no Roberto? Mi sembra quello il senso. Se a Ranieri danno l'anno prossimo una grande squadra, io credo che possa ripetere una grande stagione. Domani comincia il Giro d'Italia, Pier Augusto Stagi in viaggio verso l'Olanda. Ciao Pier. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Allora partiamo domani dall'Olanda, ma perché di venerdì a sto giro? Perché partiamo dall'Olanda, perché la macchina è complessa e perché soprattutto c'è bisogno di un viaggio di ritorno, non tanto per il viaggio d'andata, ma per il viaggio di ritorno, e quindi è stato anticipato. Domenica di fretta e furia ci si imbarca, lunedì si viaggia e martedì il Giro d'Italia a tutti gli effetti sarà per l'Italia. A Catanzaro, quindi esatto, si passa esatto, dal nord al sud dell'Europa pronti via. Intanto ci sono queste tappe olandesi, la prima è la cronometro di domani, ne parlavamo l'altro giorno quando sei venuto a trovarmi a microfoni spenti. Queste tappe olandesi piatte, normalmente le prime tappe dei giri le battezzi come tappe per velocisti, però c'è un però. Sì, guai a sottovalutarle, soprattutto poi potremmo farci raccontare molto bene da Vincenzo Nibali, che l'anno scorso a luglio ha pagato caro la seconda tappa e comunque le tappe olandesi. Anche il tour è partito l'anno scorso dall'Olanda, eravamo sul mare e lì soffia forte forte il vento e sono le montagne più dure, dicono i corridori, li chiamano proprio le montagne invisibili, e quando meno te l'aspetti arriva una folata di vento e manda in frantumi il gruppo, ti trovi da solo, ti trovi contro una montagna che tu non vedi, la strada è piatta ma ti sembra di scalare il Mortirolo, quindi bisogna stare attenti e soprattutto protetti dai compagni di squadra che nel momento in cui il gruppo appunto si polverizza, a differenza del Nibali dell'anno scorso che è rimasto solo soletto, quest'anno perlomeno se dovesse succedere una cosa analoga deve avere almeno al proprio fianco 4-5 compagni di squadra in grado di ricucire, di riportarlo nelle posizioni di testa. Quindi sono prime tappe particolarmente insidiose proprio per la questione delle montagne invisibili, del vento del mare del nord. Ma poi si arriva in Italia, si riparte da Catanzaro, si risale tranquillamente e poi ci sono le solite montagne particolarmente dure. Quest'anno c'è anche una cronoscalata nel finale che decideranno tutto. Sì, diciamo, per il primo arrivo è la sesta tappa a Roccaraso, è già lì e vedremo un pochino, si misureranno le forze. Poi un'altra tappa estremamente indicativa, la cronometro Gaiole in Chianti, una cronometro di 40 km, molto impegnativa, dura, e lì verranno fuori gli uomini forti. Io credo che un uomo come appunto Vincenzo Nibali dovrà battere il colpo assolutamente, dovrà stare lì in modo particolare con corridori come Tom Dumoulin, l'olandese che mira a fare un altro grande giro come l'anno scorso ha fatto la Vuelta lottando fino all'ultimo giorno con Fabio Aru, quest'anno cercherà di misurarsi in una delle corse più dure del mondo, perché a tutti gli effetti il Giro d'Italia è secondo solo al Tour de France. Poi occhio ad Alejandro Valverde, che è uno che va forte da tutte le parti, ha 36 anni, correrà la prima volta il Giro d'Italia, ma è uno che una Vuelta alla vita, è arrivato terzo al Tour de France l'anno scorso, ha ottenuto altri 4 podi alla Vuelta, è un esordiente al Giro, ma sappiamo è il numero uno del ciclismo mondiale, per 4 volte lo è già stato, certo. Ha grande esperienza e soprattutto una grande testa. Poi c'è Landa, questo basco che fa paura a tutti. Questo basco che fa paura, che soprattutto ha una grande testa. L'anno scorso come compagno di squadra di Fabio Aru correva per l'Astana, pilotato come meglio non avrebbe potuto fare al secondo posto, e già che c'era lui ha fatto terzo, e quest'anno invece verrà per correre in proprio, no? Si è messo in proprio, ha una maglia nuova, quella del Team Sky, che è un team, è il team più forte del mondo, e quindi verrà a fare veramente il guastafeste. Lo conosce abbastanza bene, non benissimo, ma abbastanza bene Vincenzo Nibali, essendo stato un suo compagno di squadra. Lui teme solo, l'ha detto, lui temo le cronometro, ma non temo Vincenzo in salita, temo certo la sua esperienza, la sua forza e soprattutto la sua fantasia, perché una delle caratteristiche che ha Nibali è proprio quella di così trovare di avere grande il colpo creatività, di genio, sì, di avere grande sì, creatività quando meno te in l'aspetti, corsa. Quando meno te l'aspetti lui qualcosa te lo inventa. Certo, devi star bene, perché se le gambe non sono quelle buone puoi avere la fantasia, ma poi alla prima curva ti fermi. Certo, e da domani ne parliamo tutti i giorni su questi schermi con Pier Augusto Stasi. Grazie Pier, buon viaggio. Grazie a voi, buon viaggio verso l'Olanda. Su questi schermi in tutti i convocati, ovviamente finestra ogni giorno sul Giro d'Italia, ma troverete tutti i servizi del caso anche nei GR del mattino, nei GR della sera, collegamenti in diretta per i momenti salienti, insomma tutto quanto. Marco Bologna, buongiorno. Buongiorno, siete in chiusura, quindi... Ma dico solo il mio supporto al presidente della nostra Virtus, sicuramente l'unico che non avrebbe dovuto parlare oggi, ma nel senso che è davvero l'unico che non ha responsabilità, è stato richiamato pochissimo tempo fa per mascherare gli errori di tutto il resto della fondazione. Quello che fa rabbia noi tifosi, anche se il livore è ancora molto caldo, quindi magari poco lucido, è che nessuno ammetta le responsabilità individuali di una retrocessione che ha tanti colpevoli, ma che non si può risolvere dicendo è colpa di tutti, tutti dobbiamo sacrificarci adesso. E questo è un peccato, e sentire la passione e l'emotività con la quale ha parlato il nostro presidente alcuni minuti fa davvero toccano il cuore, perché ci fossero state più persone come lui, sicuramente quest'anno la Virtus non sarebbe retrocessa. Vabbè, non a caso Alberto Bucci è un grandissimo uomo di sport ed è per questo che non ha nessun problema anche oggi, pur essendo totalmente incolpevole rispetto a quanto è successo a Bologna rispetto a questa retrocessione, non ha nessun problema a metterci la faccia e non avrà problema a metterci in futuro se glielo chiederanno, come avete sentito. Ci fermiamo qui, grazie a tutti. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao, aiuto.